Sir George Pickering, che quando si parlava della drastica riduzione del sale nella dieta, che comporta delle limitazioni alla vita quotidiana notevolissime, diceva che andrebbero prese cum grano salis. Maurizio della provincia di Chieti, rapidissimamente, buongiorno. Io ho 46 anni, sono normale col peso 72 kg e pratico sport un paio di volte alla settimana, la pressione è piuttosto bassa e sono bradicardico. I miei genitori erano ipertesi, che rischio ho nel futuro di diventare iperteso? Mia moglie durante il parto, 10 anni fa al secondo parto, sì, di però, colpo ha avuto problemi di ipertensione. Sai che però noi, io dico a mio marito che noi non siamo neanche parenti. Cioè, sua moglie sulla sua pressione ha poco a che fare. Dicevo per conto mio. Poi mia moglie, la seconda domanda. Mia moglie ha dato. Sulla seconda non penso che avremo tempo di rispondere. Rispondiamo a lei e la prossima per la moglie, perché abbiamo pochi minuti. Esiste una componente genetica, sicuramente. Quindi, avendo due genitori ipertesi, il rischio che nel corso della vita si possa sviluppare ipertensione è più alto. Sì. Difficile quantificare quanto sia più alto. E non è ineluttabile che una persona che ha due genitori ipertesi diventi iperteso. Da un punto di vista pratico bisogna controllare la pressione regolarmente, mettiamo una volta all'anno, per identificare se e quando l'individuo diventa iperteso. È assolutamente semplice. Purtroppo non siamo avanzati molto sulla caratterizzazione genetica, nonostante gli innumerevoli studi, gli innumerevoli fondi dati a questo tipo di ricerca, ancora siamo alla storia del paziente, cioè se il papà e la mamma erano o non erano ipertesi, però ci sono fondate speranze che nel futuro questa conoscenza diventi più quantitativamente e qualitativamente importante. Dottoressa Reverso, voglio salutarla, grazie per essere stata con noi, grazie per le indicazioni, ci ha fatto venire fame comunque. Bene, questo è sano, sono le 11:54, io saluto e ringrazio molto il professor Mancia per essere stato con noi, per grazie averci messo a disposizione il suo tempo, la sua competenza e la sua chiarezza. Io vi saluto, ringrazio Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in redazione, e noi ci sentiamo domani. Essere e benessere.